and when you're right. Runtime Radio, la radio non solo geek, vi dà il benvenuto. Ciao Fioi, qua tutto bene? Come sia qua Runtime Radio? Un abbraccio enorme a tutti gli ascoltatori e niente, passate a ben, tanta birra e saluti da Padova. Eccoci qui, carissimi amici di Runtime Radio, www.runtimeradio.it. Questo è un periodo veramente molto pieno di cose, sapete, la grande trasformazione, stiamo parlando da tantissimi giorni. Runtime Radio diventa finalmente, dopo tanti anni, ufficialmente una web radio e da lunedì partirà il primo palinsesto fisso della nostra radio. E per essere una radio non professionale, ma è una web radio comunque che ha un background di 10 anni oramai di podcast, abbiamo un palinsesto veramente molto ampio. Di solito un palinsesto così ampio ce l'hanno solo le radio professionali, quindi fatemi fare un po' il gaggio. Michela, benvenuta. Salve a tutti. Sì, ormai siamo diventati Radio DJ, ci fa un baffo, ma purtroppo non abbiamo i capitali di Radio DJ. Questa cosa non la riesco a capire perché, boh, ma neanche di Radio Chenoir, però dire, manco di Radio Chenoir, ma manco proprio di Radio Niente, proprio. Allora ragazzi, torniamo su un argomento sul quale già siamo stati, poi della web radio parleremo dopo nella seconda parte perché il tempo stringe e soprattutto uno degli ospiti ha un timing ben preciso, quindi cercheremo di essere coincisi, che poi insomma alla fine va bene anche alla radio. Quindi iniziamo giustamente presentando da Londra, pronta, gagliarda e tosta e anche un po' incazzata, la nostra amica Ilaria. Ciao, buonasera a tutti. Come stai, Ilaria? Bene, bene, molto incazzata. Molto incazzata, la cosa importante. Io adesso volevo parlare di cose, no, perché però è bello, la sai, questa cosa, no, sono tutti... E vabbè, quindi poi ne parleremo durante la trasmissione, perché come l'altra volta, giustamente, però questa volta da Roma, perché ha pensato bene, giustamente, dico io quasi quasi da sto casino me ne vado, ci abbiamo l'amico Vittorio. Io sono venuto a Roma perché tu mi hai offerto il caffè e allora ho fatto venire tutta la famiglia qua. C'hai ragione. Poi però ci sono i lockdown, le zone grigie, zone marroni, zone verde gialle e non diciamo poi altri colori perché non ci piacciono e vabbè, alla fine prima o poi ci incontreremo, questa è la cosa più importante. Ma adesso c'è la zona gialla, cioè adesso c'è la zona gialla, potremmo anche andarci a Roma a prendere un caffè, magari. Sì, vabbè, un caffè, Vittorio, preparate perché insomma non si nega a nessuno. Allora ragazzi, Brexit un mese dopo significa che praticamente dal inizio insomma del 2021 il Regno Unito finalmente a un certo punto, perché poi pure sta querella insomma era, cioè, quasi quasi ci aveva un po' rotto. Scusate se vi interrompo, ma ci sta ascoltando Mario Draghi che ha detto che è impegnato. Okay. Se no ci ascoltava. Ok. Fantastica questa cosa. Non iniziate a fare i burloni sulla chat. Questa cosa che sta chat che ti sei inventata tu, ci possiamo scrivere qualsiasi nome. Esatto, è veramente rischioso. Dovremmo organizzarci qualcosa, infatti c'è Lobby 2077, vabbè, di tutto. Vabbè, ragazzi, l'importante è che ci ascoltate, che è la cosa più importante. Dicevamo della Brexit, finalmente appunto è successo, questo evento è successo, penso che nel Regno Unito sono tutti contenti, sono tutti più rilassati. Certo, storicamente diciamo che questa cosa è successa in un momento un po' particolare, perché chi se lo sarebbe aspettato che ci sarebbe stata una pandemia di mezzo, un cambio del presidente degli Stati Uniti, tutta una serie di cose che probabilmente alla fine non so quanto giochino a favore. Allora iniziamo da Ilaria, che Ilaria temeraria e gagliarda e tosta ha detto io rimango a Londra per ragioni sconosciute. Ma io in realtà ho provato a scappare, però hanno chiuso le porte. Non fanno neanche uscire, quindi. No, allora io per una, io diciamo così, con la mamma anziana eccetera, a Natale sono rimasta nel dubbio, torno a casa, non torno a casa. Certo. E poi ho detto vabbè, faccio la persona coscienziosa, resto qui, tanto è Natale, capirai. Se non che boom, tutta la variante British, la break, tutti insieme, iniziato, è stato un periodo assurdo. Comunque tant'è che quindi poi sono rimasta chiusa dentro. Beh sì, poi c'è, si è aggiunta tra l'altro, ecco, al di là di questa cosa della pandemia, si è aggiunta questa famosa variante britannica del virus, che pare che sostanzialmente cambi poco, se non un, beh, molto più aggressiva, un livello di infettività maggiore, che insomma poi bisognerà vedere, perché poi vabbè, e quindi praticamente tu sei rimasta e insomma nelle prime settimane, nei primi giorni, fondamentalmente che cosa hai percepito come dice, cioè, nel senso, sai quando si fanno questi passaggi storici, no? Oggi è così, tipo oggi ho 17 anni, domani ho 18 anni, no? E tutti dicono: ah, come ti senti? Sei maggiorenne, fondamentalmente non cambia niente. Invece in questo caso mi sa che qualcosa è cambiato. Allora, il giorno stesso no, nel senso ti sei svegliato che sei come quando sei maggiorenne, ti svegli e non è cambiato niente, però poi se fai una marachella e ti arrestano, lo senti la differenza. Ok, sei stata arrestata, no? No, io mi hanno, dovevo ricevere il famoso pacco da giù e, non, e mi è stato bloccato causa Brexit praticamente. Dato che non ci sono accordi con la Brexit, non riescono a spedire questo pacco ed è bloccato in un hub in Italia. E io sono incazzatissima come una bestia. Beh, immagino, anche perché se lo sarà già mangiato qualcuno un pacco. No, allora, la prima cosa che mi avevano detto è che mi avrebbe potuto chiamare la dogana e che avrebbero molto probabilmente aperto il pacco, perché adesso che c'è la Brexit, eccetera, controllano tutte le cose in entrata. E vabbè, fin quando lo aprono si mangiano anche un salame, va bene. Però sì, effettivamente adesso ci sono ritardi perché non riescono a farlo passare, per qualche ragione non riescono proprio a... non so, non parte più questo. Beh, tu hai fatto vedere, è arrivato proprio un messaggio esplicito, ma fondamentalmente, cioè nel senso, il pacco arriva, sì, non arriva. Sì, sì, vabbè, ovviamente mia povera sorella che stava cercando di supportare la mia permanenza in lockdown a Londra con delle tante cose buone, sì, il corriere le continua a rinviare la consegna del pacco causa Brexit e causa accordi con la Brexit, mancati, non mancati, o comunque il caos che penso si sia creato alle frontiere. Che poi se questo... non fosse stato per questo, ti dico la verità, probabilmente non me ne sarei accorta, perché poi giustamente la vita va avanti normalmente, poi specie in lockdown dove si esce poco, può succedere qualsiasi cosa là fuori, alla fine non te ne accorgi, certo. Quindi sì, però ecco. Beh, c'è anche un problema al di là del tuo pacco nello specifico, quindi magari la consegna di prodotti dall'Europa verso il Regno Unito, diciamo che c'è anche un fatto magari generale proprio di prodotti anche, cioè nel senso comunque immagino sia complicato trovare prodotti che siano, che so, la pasta italiana, non so, mo immagino che... al momento ancora no, perché c'hanno le scorte, sì, quello che c'era prima. Esatto, al momento ancora non si sente nei supermercati, però effettivamente questa cosa, vabbè, ovviamente in piccolo è il mio pacco, però poi uno pensa in grande, allora cosa starà succedendo? Non so se hanno fatto degli accordi commerciali particolari per cui magari le aziende sono pronte a spedire più velocemente, più rapidamente, a fornire tutti quanti, piuttosto che il singolo individuo che ti manda la scorta alimentare. Però è effettivamente preoccupante. Poi tra l'altro, quando c'è stata la notizia della variante inglese, quindi hanno chiuso le frontiere eccetera, c'è stato il pericolo che andassero a mancare le scorte nei supermercati, perché tutti a fare le file per comprare roba al supermercato. Sì, anche, vabbè, poi c'era Natale, c'era il fatto che i camion non potevano passare, c'era la Brexit più la variante inglese insieme, e quindi c'è stato un po' di panico in questo senso qua. Però per il momento ancora, diciamo, in giro non si sente nei supermercati questa cosa per ora. Senti, prima di andare a parlare un po' di quello che è la percezione, come abbiamo fatto l'altra volta, anche parlare di quello che dice la gente o la situazione politica, anche magari i telegiornali e via dicendo, mi sposto un attimo da Vittorio a questo punto, perché Vittorio, per ragioni X che possono essere lavorative o via dicendo, ha avuto, diciamo, per certi versi forse la prontezza, no? Quasi, di andarsene al momento opportuno, cioè nel senso, comunque, anche se immagino perché con questa situazione in ballo sia stato anche complicato trasferire un'intera famiglia dal Regno Unito, quindi vendere una casa, comprare un'altra casa in tempi anche insomma abbastanza concentrati. Vittorio. Sì, non è stato facile per niente. Non abbiamo comprato la casa, siamo in affitto, però abbiamo fatto tutto il resto. Il trasloco in tempo di Covid non è proprio il massimo. Certo. Però l'abbiamo fatto prima che ci fosse la Brexit e questo è stato un grosso, diciamo, vantaggio da un punto di vista. Però sì, effettivamente è una cosa che è abbastanza complicata. In generale un trasloco internazionale è una cosa veramente, l'ho già fatto 3 volte, spero che sia l'ultima, perché è veramente un caos organizzato, anche perché poi per esempio le cose sono arrivate in ritardo come al solito e vabbè. No, la cosa interessante casomai è che i pescatori inglesi sono molto arrabbiati, non so se avete letto, perché ovviamente adesso loro sono fuori dalla comunità europea e una delle poche cose che gli inglesi esportano, perché sono un paese che importa tutto e esporta poco, è il salmone ad esempio o i pesci, e erano completamente impreparati perché come esterni adesso devono compilare dei documenti eccetera eccetera, e infatti i pescatori hanno buttato tantissimo pesce a gennaio perché non è potuto entrare nella comunità europea. Adesso leggevo che oggi c'è stato un altro problema perché per esempio sostanzialmente che cosa è fatto? Hanno fatto un accordo simile a quello canadese. Boris Johnson si è vantato un sacco dicendo abbiamo fatto come il Canada l'accordo con gli... La grande differenza è che il Canada non manda il pesce all'Europa. In Europa il pesce fresco non può entrare se non pulito, decontaminato eccetera. Prima gli inglesi non lo facevano, per cui è un mese che molluschi, salmoni eccetera eccetera in Europa non possono entrare. I pescatori sono disperati perché il loro più grande mercato era quello. Eppure scusa Vittorio, però da quello che ricordo io i pescatori erano, cioè quindi quella fascia elettorale lì diciamo era quella più pro Brexit inizialmente. Cioè. Beh, diciamo che loro l'hanno scoperto dopo, perché il governo inglese diceva sì, tutto a posto, abbiamo gli accordi eccetera, in realtà gli accordi non sono mai stati ratificati nero su bianco, certo. Sono stati molto vaghi e la comunità europea ha detto questo è per noi la regola, il pesce introdotto da fuori, i molluschi introdotti da fuori o vengono puliti o vengono da acque considerate A, per cui ultra pulite, oppure non possono entrare e non sono entrati e quindi i pescatori sono molto molto arrabbiati con il governo inglese, perché questo era uno dei problemi, perché poi non so se avete seguito la discussione, uno dei motivi principali, io non lo sapevo, era il pesce, le zone marittime, quali possono entrare i pescatori europei, quali possono entrare i pescatori inglesi eccetera, poi non hanno studiato il fatto del commercio, perché ovviamente gran parte del pesce pescato in Inghilterra finisce in Europa, no, il salmone scozzese lo sappiamo tutti che si trova nei supermercati, è probabile che adesso troveremo solo il salmone norvegese, a noi non cambia niente, a loro tantissimo, perché se non vendono in Europa. E torniamo agli scozzesi, che poi tra l'altro se pure in Irlanda del Nord, sempre per la questione comunque esportazione del pesce, pure in Irlanda del Nord ci sono particolari problemi, cioè l'Unione Europea ha consigliato ai funzionari che si trovano in loco di non recarsi al lavoro, comunque di restare a casa, perché comunque la tensione è alta, ci sono già stati scontri almeno da quello che ho letto negli ultimi giorni proprio, quindi anche in Irlanda del Nord cominciano a farsi venire un po' di prurito. Ecco, sentiamo Ilaria su questo e aggiungo anche una domanda, visto anche prendendo spunto da quello che ha detto Vittorio. Cioè noi qui in Europa a livello di informazione eravamo perfettamente consapevoli che non esisteva nessun accordo fino a 3 minuti prima, anche fino a 3 minuti dopo. E invece nel Regno Unito alla gente, i media cosa raccontavano di questa cosa degli accordi commerciali, frontiere, X, Y? Allora, io vi dico, c'era uno spot molto divertente, tra mille virgolette, su YouTube, sai, advertisement prima dei video, eccetera, in cui dicevano get ready for Brexit, facevano il countdown e c'era il link per i business, controlla se il tuo business è pronto, le guidelines sono a questo link. Però quando cliccavi il link, che ovviamente l'ho fatto perché ero curiosa, non c'era assolutamente niente, non c'era assolutamente nessuna guideline, e i commenti a questi video delle persone che gestiscono business era che effettivamente non c'era nessuna guideline ancora. Quindi diciamo che dal video, dal messaggio mediatico, passava l'idea che fossero pronti e che business dovessero solo adattarsi. Però in verità poi chi gestisce il business sapeva bene che non c'erano queste cose. Quindi c'è, diciamo, questo doppio canale, c'è il popolo che non è coinvolto in questa cosa, che pensa che sia stato fatto tutto bene, invece chi è stato colpito pensa, sa che le cose non sono quelle che dicono. Questo è un po' il problema dei governi populisti, no? Che fanno questi big claim e poi magari li attuano pure, perché ormai l'hanno detto, lo devono fare, e ci si trova. Beh, ricordiamoci che in generale, comunque, sia con la May che poi con Johnson dopo, cioè, anche a livello parlamentare hanno fatto di tutto per far passare cose di ogni genere, fino a dover addirittura arrivare a fare nuove elezioni, perché chiaramente erano anche mezzi rimasti bloccati, no, a livello parlamentare, insomma. Quindi alla fine, comunque, ovviamente lo scontro, penso, all'interno del Regno Unito dove ci sia stato, però è chiaro che io, quello che leggo, poi ecco, mi confronto con voi che magari lo sapete meglio, è di aziende anche a livello internazionale che hanno abbandonato Londra in massa, insomma. Tante, sì. Quindi questo, no, è pure un problema pure per l'occupazione, poi, fondamentalmente. Questo non lo so, perché anche tante persone stanno abbandonando Londra o comunque il Regno Unito, cioè già soltanto tra le persone che conosco, anche Vittorio adesso è in questa via. Vittorio, lasciato da sola. Lasciato l'aria da sola. Beh, tu comunque. Beh, ma è successo così. Tante aziende internazionali dicevano no, noi la Brexit non ci interessa, non restiamo, e poi invece di soppiatto. La Nissan aveva una delle più grandi impianti a Newcastle, se non mi sbaglio, ha detto no, non ci sono problemi, anzi raddoppiamo, triplichiamo l'impegno, e poi invece hanno chiuso. Uno dei problemi, non so se se ne discute tanto, ma per esempio in Inghilterra il commercio online va benissimo, mi sembra che il 30% degli acquisti vengono fatti online, mentre in Italia è tipo il 7%. Il problema, sì, anche se con la pandemia le cose sono abbastanza cambiate, da questo punto di vista. Sì, sono aumentate in tutti e due i posti. Il problema è che quasi il 70% dei corrieri in Inghilterra sono stranieri, in particolare polacchi, non mi chiedete perché, però questo dato mi è stato fornito. E molti dei polacchi, prima della Brexit, sono tornati a casa. E quindi Amazon, UPS, eccetera, si sono ritrovati in grande difficoltà. Perché uno dei motivi della Brexit è: togliamo questi stranieri, ci riprendiamo i nostri lavori. Il problema è che il corriere, gli inglesi non lo vogliono fare, per cui ci sono anche questi altri problemi. Sì, poi si ripropongono situazioni anche qua in Italia, no? Cioè, non vuoi, no, allo straniero, però poi magari a fa comunque, sì, sì. Il pulisci cessi non ce va nessuno, poi, fondamentalmente, perché poi dopo facciamo se anche un attimo il punto della situazione. È assolutamente così. Molti inglesi preferiscono vivere di benefit piuttosto che fare il cameriere al Costa Caffè o a Starbucks. Infatti sono, se non tutti italiani, molti sono stranieri, non sono inglesi. C'è anche un'interpretazione a questa cosa, nel senso che dal momento che limiteranno l'ingresso a persone non qualificate nel paese, comunque non mi ricordo se è passato il discorso della soglia di guadagno, ma comunque non sarà più facile venire qui a cercare lavoro con la valigia di cartone. Questo è un'arma a doppio taglio, perché crea una sorta di nuova schiavitù, e quindi di manovalanza a basso costo e con zero diritti, di gente che arriva per trovare lavoro e non sarà possibile integrarla in maniera legale, e quindi insomma sarà una manovalanza a costo molto basso. A tal proposito, per esempio, l'altro ieri vedevo un posto di lavoro a Manchester, se non mi sbaglio, che richiedeva la lingua italiana, per cui era aperto soprattutto a stranieri, e diceva: non vi candidate se non avete già la visa. Vittor, ma quindi stai pensando già al quinto trasloco internazionale? Lui, no. Lui guarda gli offerti del lavoro, però poi dopo... mi arrivano sulle mail, l'ho visti, e infatti diceva: attenzione, se non avete la visa per venire a lavorare in Inghilterra non vi candidate. E quindi ci saranno dei problemi, perché io non credo che a Manchester ci siano tanti in grado di parlare italiano. No, ma poi secondo me si sono molto complicati anche la vita, perché se comunque durante questi ultimi 30 anni, io parlo anche proprio di esperienza, di amici, di situazioni in generale tra ragazzi, no? Molte persone che conosco sono andate comunque nel Regno Unito, magari per un mese, magari per tre mesi, per sei mesi, per un anno, due anni, comunque anche a fare i camerieri, a fare l'esperienza, a imparare la lingua. Chiaramente, cioè, alla fine questo era un vantaggio. Tu andavi a Londra, trovavi gente di tutti quanti i tipi, no? Oppure anche a Edimburgo, a Dublino, via dicendo. E oggi chiaramente questa cosa viene molto minimizzata, no? Cioè, anche a discapito, voglio dire, dei datori di lavoro, secondo me. Poi non so, Ilaria, tu come la vedi? Non so, c'è una cosa molto interessante che mi disse un mio amico, mio ex coinquilino bulgaro, che lavorava nelle costruzioni, che diceva che secondo lui il problema è che quando arrivano questi lavoratori dall'Europa come noi, spesso e volentieri partono da zero, ma sono lavoratori che lavorano tanto e che si impegnano tanto e che sanno quello che fanno, e quindi diciamo scalano la scala molto velocemente. E questa cosa che magari i British non riescono a fare tanto bene, specie nei lavori a non qualificati, diciamo gli fa un po', come si dice, rodere. Gli dà fastidio, è chiaro. Gli dà fastidio. Quindi l'ho trovato un'osservazione interessante. Comunque mi ha fatto un po' pensare che potrebbe esserci anche qualcosa di questo genere nell'odio dell'elettorato. Beh, non è da escludere. Poi consideriamo, io la sensazione, io quei non tantissimi contatti che ho avuto in generale, anche quando sono stato a Londra, a Cambridge e vari posti, comunque questa sensazione del fatto che noi siamo l'impero britannico un po' ancora ce l'hanno, secondo me. Tantissimo. È un po' la base anche di questo referendum, secondo me. Cioè, riprendiamoci la nostra identità, no? In qualche maniera. Che poi, voglio dire, no? Senso. Vabbè, loro si sentono un po' infallibili, secondo me, in generale. Si sono sentiti infallibili nel Covid, per il Covid, si sentono infallibili sulla Brexit, nonostante poi si è dimostrato che sono molto fallibili, però non senti mai un'ammissione di errore. Questo mai. Mentre noi italiani stiamo sempre lì a ungerci il capo e a guardare gli altri come fanno bene le cose, per loro hanno fatto la cosa migliore che potevano fare sempre, indipendentemente da quale sia stato l'altro. Vabbè, quello fa parte anche un po' della politica, in particolare loro, no? Perché per esempio anche negare l'evidenza, magari, cioè, non so, ti sta a cascare il mondo sotto i piedi. Esatto. No, noi siamo fantastici. Cioè, noi che li vediamo da qua, diciamo, questi crollano, cioè gli è cascato tutto. Vabbè, no, ma... in generale in una situazione come questa, perché poi, Vittorio, io penso che adesso il Regno Unito si trova nella scomoda posizione di dover ricontrattualizzare una marea di accordi commerciali per sanificare poi questo vuoto, perché secondo me, io sono abbastanza convinto, però smentitemi, cioè ditemi se non capisci niente, che io sono fiero. Esatto, io sono fiero di questa cosa, insomma, sapete che ho l'impressione che loro si sono presentati a questa situazione senza avere veramente delle solide alternative, se non quelle che noi ipotizziamo di sottobanco, diciamo, essere un po' stati spalleggiati dagli americani, perché insomma poi alla fine cioè, nel senso, comunque le due realtà che possono veramente guadagnare da una disgregazione dell'Unione Europea sono o la Russia o l'America, non è che c'è stato tante altre realtà, insomma. Ecco, la sensazione, Vittorio, è che loro sono arrivati a questa cosa dovendo ricostruire una serie ad accordi commerciali che saranno impegnativi, perché non c'hanno più il coltello dalla parte del manico, secondo me. Beh, un paio di cose. Loro erano convinti che uscivano dall'Europa, ma per esempio rafforzavano i rapporti con la Cina, che è sicuramente un mercato importantissimo. E invece la Cina gli ha detto: no, per noi voi siete importanti, se rimanete nell'Europa siete, diciamo, la porta per entrare in Europa. Se uscite dall'Europa, a noi ci conviene trattare. Ci serve un'altra porta. Che è un mercato più grande. Gli americani in realtà non sono mai stati particolarmente favorevoli a questa Brexit, e loro hanno sempre tenuto la posizione, nel senso che Boris Johnson fino all'ultimo secondo ha detto: vabbè, usciamo senza deal, non è un problema. Gli accordi li hanno fatti all'ultimo secondo, alcuni non sono stati ratificati, non sono stati confermati o discussi nei dettagli, e questo comporta dei problemi. Ma io, vissuta da là, a quelli che in Italia dicevano: ah, figo la Brexit, la dovremmo fare anche noi, veramente, cioè, a me veniva da ridere. In un mondo sempre più globalizzato, dividersi dagli altri è il suicidio evidente. Adesso l'Inghilterra ha sicuramente tanti difetti, ma ha una organizzazione che noi ci sogniamo, un patriottismo che noi ci sogniamo, eccetera eccetera, quindi magari con la Brexit riescono comunque a sopravvivere. Ma cioè, se l'Italia lascia l'Europa, io sento: ah, senza euro facciamo così, eccetera. Ma dove fa? Beh, tu dici, nel senso che la Brexit è uno spottone per tutti i nazionalismi, diciamo, i sovranisti, insomma, dell'ultimo minuto, che chiaramente in questo momento cavalcano un po' questa situazione. Beh, il Regno Unito è uscito da crisi anche peggiori. Chiaramente una Brexit più Covid, chiaramente è un grosso impegno. Covid, no? come poi, cioè, lo stanno affrontando loro, perché c'è un lockdown infinito in pratica. Eh beh, però hanno fatto pure finta di niente fino all'ultimo, anche. Esatto. Scusate se interrompo. Hanno già annunciato che gli esami di maturità di quest'anno sono cancellati di nuovo. Le lezioni sono, i bambini vanno alle 9, hanno l'appuntamento con la maestra che dice: fate questo, ci vediamo dopo. Cioè, non, anche la scuola sta messa malissimo. Vabbè, quella sta messa male pure da noi. Ilaria, com'è la situazione Covid? Cioè, nel senso, a livello proprio di, cioè, spiegami come funziona. Non ho capito se le mascherine sono obbligatorie oppure no. Ah, ok. Ma non l'hai capito tu, questo, o non si capisce? Perché questo è... dico solo questo, non si capisce, è un suggerimento, è praticamente un suggerimento. Se volete, se volete mettete la mascherina, ma... Sì. Ma la gente se la mette poi, no, in giro? No. Alcuni, ma un buon 50% no, e considerando che hanno avuto 1000 morti al giorno fino all'altro ieri, no. Capito, non è che non ha molto senso, secondo me. Allora, c'è da dire che i media sono, anche in questo caso qua, sono molto rassicuranti, capito? Non sono come i media italiani che ti bombardano di quanti morti ci sono, ti fanno vedere bare, ti fanno proprio spaventare, secondo me, giustamente. Qua è tutto molto mild, è tutto molto tranquillo, è tutto, c'è l'emoticon con la faccina, con la mascherina, hands face space, con tutte queste frasine che fanno rima, non ti fanno proprio venire preoccupare. E poi vai a vedere, ci sono 1000 morti e dici: ma cosa sta succedendo? Però la percezione, sì, loro comunque l'hanno sempre presentata in questo modo qua, anche perché loro puntavano subito al discorso dell'immunizzazione di gregge, che poi, voglio dire, no? È la stessa cosa che è successa in Svezia, e poi si sono ritrovati con le pezze, come si dice, no? Perché poi in realtà pure in Svezia hanno fatto finta di niente fino all'ultimo, e anzi, era la patria dei complottisti. Vedete, in Svezia, che è un paese civile, vedi, non c'è il Covid, vi stanno inventando. E poi migliaia di morti, come purtroppo, insomma, anche qui in Italia, che comunque stanno sempre a una media di 500 al giorno, non è che... Vabbè, è la metà, sì, no, in generale, da quello che vedo, insomma, Regno Unito, gli Stati Uniti stanno proprio a pezzi, cioè, nel senso, no, l'hanno presa malissimo. Io sono anche molto preoccupata sulla gestione dei vaccini. Vabbè, entriamo in un altro topic completamente, però ci interessa comunque come hanno Allora, per quanto io abbia capito, perché io ammetto che poi sono ovviamente posso aver capito male, non lo so, ma te, però c'è un delay, c'è un ritardo nella seconda somministrazione della dose, perché praticamente hanno gestito male le prime dosi, o comunque per fare più dosi sono rimasti senza l'accesso alle seconde dosi del vaccino, per cui la ritarderanno rispetto a quando sarebbe dovuta essere stata somministrata. O addirittura ho letto su alcuni giornali, non ricordo esattamente la fonte, mi dispiace di questo, però perché era qualcosa da segnare, che stavano pensando di mischiare i due vaccini, di fare una dose di Pfizer, una dose di AstraZeneca. Ma sì, mettiamo un po' di scotch nella birra, che ce frega la birra. Esatto, di fare un cocktail di così, quindi insomma non lo so, in generale come esperimento di governo populista è da brividi proprio di paura, no. Vittorio, tu invece come te la ricordi la situazione prima di partire, insomma, e quello che sai magari dai contatti che c'hai ancora quotidianamente? Beh, sulla mascherina loro dicono che, essendo una delle più grandi democrazie, più antiche democrazie, non possono importi di metterti la mascherina, loro ti dicono should, e quindi non possono dire must, e questo è un problema, perché io mi ricordo anche quando stavo su a Leeds che io andavo con mascherina eccetera, molti se ne fregavano, e questo evidentemente ha avuto un impatto terribile per il numero di morti eccetera. È una cosa vissuta così, perché ovviamente la BBC e gli altri canali cercano di non esasperare la situazione, che è già abbastanza drammatica, però per esempio molti miei amici che stanno su sono stati messi in forlò, ovvero una specie di cassa integrazione inglese, perché ovviamente la situazione economica è abbastanza grave e c'è un sacco di gente che ha perso il lavoro. In più aggiungi la Brexit, per cui non è stata una situazione molto molto facile. E purtroppo la situazione non è fantastica. Oggi leggevo, non mi ricordo dove, che però un quinto della popolazione ha già fatto il primo vaccino. Il problema è che hanno prolungato la seconda dose, mi sembra, di un mese, per cui potrebbe anche invalidarsi il vaccino così, Non è efficace, esatto. Per cui serve una seconda dose, però ripeto, loro sono stati, è vero che, siamo onesti, nessuno era preparato no vabbè, questo è chiaro, cioè, nel senso, una pandemia penso che capiti una volta al secolo, sì e no. Speriamo anche se, come diciamo, e abbiamo fatto anche una puntata specifica, in realtà era un problema annunciato, cioè sapeva che prima o poi sarebbe successa una situazione del genere, proprio perché è anche un po' la globalizzazione che lo chiama, no, una cosa del genere, e che comunque c'è un'evoluzione virale e tutta una serie di situazioni che purtroppo prima o poi sarebbe dovuto succedere. Fortunatamente è successo con un virus che poi tutto sommato fa male, ma fino a un certo punto, insomma, nel senso, la spagnola ha fatto peggio, insomma, no? Se ci andiamo a ricordare un po' questo tipo di discorso, anzi, se noi non ce lo ricordiamo, grazie a Dio, insomma. Senti Michela, ma in chat c'è qualcuno che ha detto cose interessanti, oltre a scrivere, vabbè, cioè, nomi a caso, tipo Mark Hamill, William Shatner, che poi ho scoperto chi è stato a cominciare, quindi poi lo corcheremo de botte, okay, no, perché poi dopo tutti gli hanno, tutti, se uno fa il credito, fanno dietro tutti, sì. Bravi, complimenti. Noi vogliamo bene ai nostri ascoltatori, però loro ci vogliono bene a noi, sì, ma sta chat li ha un po', li ha destabilizzati, sì. È stato un errore di runtime, ragazzi, dare una chat con accesso libero era una con nome libero, poi, esatto, quindi era una sperimentazione, è uscito di tutto, da Rocco Siffredi a Mark Hamill a Toninelli, William Shatner, sì, ho visto tutto. Adesso c'è Charles Windsor che si dice did you see mom? Tutto sommato did you see mom? Vabbè, voi sapete che runtime, come abbiamo detto mille volte, è in fase di sperimentazione sia nello streaming che in tutta questa evoluzione del sito, quindi ci sta che possiamo commettere un errore, anche se poi è un errore simpatico perché alla fine stanno a mettere solo dei nomi a casaccio, insomma, tutto sommato. Allora c'è Doomboy Walter che vuole ripetere la domanda che avevo fatto in prediretta, sì. In prediretta, quindi se la riscrive lui, la scrive lui, se no la vado a ricercare. Vabbè, se no la sintetizziamo, era la domanda relativa al fatto se è vero. Cosa spinge UK a dare incentivi in denaro ai cittadini stranieri per farli tornare in patria? Non vogliono forza lavoro straniera? Non vogliono inquinare il gene? Okay. Diciamo, senza andare nell'inserire elementi di razzismo all'interno del concetto. Vabbè, stavo leggendo quello che c'era scritto. Allora, Ilaria, tu hai avuto notizie in merito a questa cosa? Dato che sei una straniera, in teoria dovresti saperlo. Se ti danno un incentivo, io se fossi in te me ne darei. Infatti io questo stavo per dire, a me non mi hanno offerto niente, tipo né per restare né soprattutto per andare, insomma. Esatto, mi fa. Non te fanno manco venire il pacco da giù, quindi voglio dire. Cioè. Hanno detto Ilaria. Non se, bloccato il pacco. Esatto. Non mi fanno, almeno mi fanno andare a me dal pacco. Magari in un italiano. Adesso non so se puoi tornare, se tornare ti tocca come minimo la quarantena. Quindi, cioè, questo è. No, questo ma mi sa che non ti fanno proprio partire. Fanno proprio partire, giusto? Vabbè. No, adesso. Però ti dicono Ilaria, lei deve stare qui, quindi cerchi di non darci fastidio, questo al massimo, insomma. Esatto. No, però io non ho sentito di questa notizia, quindi non posso commentare onestamente. Okay. Allora, potrebbe averla sentita invece Vittorio, perché se ne è venuto via, quindi può essere lui l'incentivo l'ha preso. Vittorio. Cavolo, a saperlo. Me ne andavo 10 minuti dopo. No. Vabbè, quindi non vi risulta. No. E infatti ci dice Doomboy che se non è vero è sollevato, quindi non sì, mi sembrava un po' troppo anche per Regno Unito. Almeno diciamo che per quello che possiamo dire, visto che abbiamo comunque delle persone coinvolte, è abbastanza falsa come notizia. O quantomeno quindi. Non è così popolare, diciamo così, magari qualche, vabbè, perché poi dopo alcune informazioni escono un po' così anche per marcare un po', mettere un po' benzina sul fuoco su una situazione che chiaramente già non è quello che è, insomma, anche perché poi per l'Europa comunque al di là di tutto, e l'abbiamo detto tante volte, magari lo ribadiamo, indipendentemente dal fatto che forse per certi versi chiaramente un po' adesso loro pagheranno lo scotto, però è una perdita comunque anche per l'Unione Europea, ma anche filosoficamente, no? Anche concettualmente, no? Questo primo elemento di disgregazione è un po' un segnale in generale che non piace, no, Vittorio? Beh, poi adesso per esempio l'Erasmus in Inghilterra non lo puoi far più, e questo è una perdita. È molto, è una grande tristezza. Adesso se tu sei straniero e vuoi andare a fare l'università in Inghilterra ti costa una fortuna, perché gli inglesi chiedono il prestito, non funziona in modo diverso rispetto all'Italia. L'Italia tu paghi in base al reddito, bla bla bla. In Inghilterra tu non paghi, tu chiedi il prestito, che tu studente, quindi non genitore, ma l'universitario fa questo prestito, e poi quando inizi a lavorare supera gli 20.000 pound inizi a pagare questo prestito. Che è piuttosto consistente, perché le università costano qualcosa come 9.000 pound al mese, all'anno, per cui capite che 4 anni là è un bel dispendio. Se tu sei europeo adesso non paghi 9.000 ma paghi molto di più e non puoi chiedere il prestito, per cui anche tutti quelli che magari pensavano beh, ma io voglio andare a farmi un anno in Inghilterra o fare l'università in Inghilterra, adesso sono bloccati. Eh sì, ma è un po' quello che dicevamo prima, anche a fare l'esperienza di lavoro comunque diventa sempre tutto un po' più limitante. Poi diciamo che comunque Walter ci ha linkato dal sito money.it la notizia: Brexit, il governo offre incentivi economici ai cittadini dell'Unione Europea per lasciare Londra. Vai, forza. Ora vedo il link, vado subito. Oh, insomma, accordo Brexit, cosa prevede, cosa va bene. Diciamo che è un peccato per quanto riguarda l'Erasmus, perché io, almeno da quello che ricordo, c'erano comunque un fottio di università che si prestavano per l'Erasmus, e quindi cioè, nelle partenze dei vari semestri, dei vari trimestri, almeno il 50% erano tutti che andavano in Inghilterra. Sì, poi vabbè, però dobbiamo anche considerare che secondo me poi dopo piano piano, magari col cambio di governo, con la stabilizzazione, piano piano si faranno degli accordi. Ah, li convinceremo, no, gentilmente. No, no, no. No. No, no, perché Boris Johnson inizialmente voleva mettere l'Erasmus negli accordi, poi è saltato per un problema economico. Ma noi pensiamo agli europei che non vanno in Inghilterra, ma gli inglesi sono quelli fregati, perché noi almeno possiamo andare in Francia, in Spagna, in Germania, dove ci pare. Loro non possono andare più da nessuna parte. E un paio di settimane fa discutevo con un idiota, perché è un idiota, che diceva ci sei andato piano, insomma. Sì. Uno che su Twitter si fa chiamare come Amo Farange, eccetera eccetera, che poi Farange, vabbè, ok, non so, è un idiota, sì, ok, vabbè, ma è un idiota già Farange, figurati, insomma. Ha preso il passaporto francese della serie, io l'ho fregato e io me ne vado, vabbè, però su quello io lo apprezzo, perché lui è stato onesto. Cioè, lui a un certo punto, quando hanno vinto il referendum, ha detto: mi sa che abbiamo fatto una cazzata. No, no, lui non l'ha mai detto. Ah, ma che, davvero abbiamo vinto? Ma io scherzavo. Io mi ricordo sta cosa, che lui ha detto: forse abbiamo promesso un po' troppe cose. Dopo, ovviamente. Certo, perché lui ha vinto il referendum perché ha promesso che la Unione Europea avrebbe ridato 153 miliardi di euro, esatto, sì, all'Inghilterra. In realtà l'Inghilterra, vabbè, però vedi, lui alla fine comunque ha detto: no, no, forse abbiamo detto qualche cazzata troppo. E comunque discutevo con questo genio che diceva: ah, ma che vi frega dell'Erasmus, trovate l'università e andate voi a pagarla. E io ho fatto: genio, ma prima era gratis, adesso devono pure pagarla, cioè ti sembra che è la stessa cosa? Certo. Ma che me frega, così la scegli, sei più tranquillo te. Sì, ma io che ho i soldi posso andarci, ma uno che magari non c'ha i soldi e si deve pagare due università, quella inglese più quella che ne so in Spagna, che fa? Diventa miliardario tutto di un botto per, infatti, andarci. Cioè, sì, sì. La gente non ci pensa, la gente non ci pensa. No, ma non ci pensa, ma si bella, perde proprio, si, esatto, perde proprio il valore dell'Erasmus, cioè quello di comunque dello scambio interculturale, cioè, che comunque viene a mancare, e quindi per forza di cose cresceranno sti persone aride e ultranazionaliste che non, già comunque io a volte vedo, no, magari viaggiando, comunque confrontandomi con persone che stanno all'estero eccetera, ma anche qua in Italia, cioè non è la stessa cosa, già vedo comunque una mancanza di cultura internazionale proprio a livello basico. Ma questo è un periodaccio, e piano piano le cose andranno, cioè si ragionerà per stereotipi e basta, cioè nessuno scoprirà. Senti, niente, io ho una domanda per l'ultima domanda per per Ilaria, sì, Valeria, scusa. L'ultima domanda per Ilaria, perché poi so che deve andare, perché Conte Mascetti, lo sai, perché questa è una domanda che faccio a lei, lei lo sa perché io lo faccio a lei. E Conte Mascetti, che giustamente è un personaggio, no, che ci segue, importante, no? Vediamo che succede in Scozia. Allora, qui si apre un po', perché io ho sempre palesato, comunque, indipendentemente da quello che dirà Ilaria adesso, che sicuramente ha ragione, io comunque ho sempre palesato il mio amore per la Scozia in generale. No? Ci abbiamo il nostro cane che si chiama Scozia. Detto questo, ciò non toglie il fatto che chiaramente io non conosco la situazione, se non tramite quei bellissimi video che fanno quelli di Scotland Now, che insomma fanno sti Hello Europe e via dicendo, insomma, mo torniamo, prima o poi torniamo, vi vogliamo bene, noi siamo europei e via dicendo. Ma non sono europei, allora no, allora, cosa stiamo parlando? Sono inglesi, sono della Gran Bretagna e sono esattamente uguali. Esatto. Sì, sono inglesi, ma non vogliono dire di esserlo, cioè sono uguali, parlano solo con un accento diverso e si mettono i kilt, sono uguali. Non, io vivendo a Londra, vivendo in Scozia, non ho vissuto non ho visto nessun grande, come dire, sbalzo culturale di nessun tipo, zero completamente, quindi precisando che, ma tra l'altro, sono, come diceva Vittorio prima, siamo nel 2021, tutti questi movimenti, e io includo anche quello scozzese in questo, tutti questi movimenti separazionisti, di, come dire, di lotta intestina tra il comune, tra, come detto, il comune a destra e il comune a sinistra, cioè sono un po' superati. Da quanti secoli è che sono un paese? Da quanti secoli è che governano insieme questo paese o che hanno il loro stesso governo? Non ha nessun senso. Io capisco. Beh, però la radice storica di questa cosa, cioè loro utilizzano il pretesto. Allora hanno ragione anche gli inglesi che si vogliono separare dall'Europa, che c'è la Francia con cui hanno fatto un mare di guerre e non si sopportano. Allora se c'è la ragione storica per la Scozia, c'è la ragione storica anche per la Brexit, che vuol dire tutti quanti abbiamo litigato nel con qualcuno, esatto, per ragioni storiche. Beh sì, però se tu vai a vedere la storia del Regno Unito tra Galles e Scozia, Irlanda, insomma alla fine posso aggiungere tutto st'amore fraterno all'interno del Regno Unito non c'è mai stato, no? Nel senso, ma anche in Italia, cioè voglio dire, pure in Italia c'è sempre stato un po' la nord e sud, c'è sempre stata la maretta, però cioè non credo che adesso sia costruttivo vederlo in maniera positiva questo separazionismo in generale, anche se pure io vorrei che tutti gli inglesi dicessero come la Scozia, noi vogliamo stare in Europa, per carità, però non ha senso vedessi come un pezzo separato, anche perché dove va la Scozia da sola in Europa? Dove va? Cioè è un pezzettino con pochissime anime, dove deve andare? Però sono più simpatici, questo concediglielo, sono più simpatici, a me mi hanno sempre offerto da bere. Sono uguali, io anzi a Londra ho fatto, trovi più persone che ti parlano per strada che non in Scozia, no, per dire, cioè beh sì, un po' come l'Irlanda, noi abbiamo vissuto un po' di più l'Irlanda. Oddio, l'Irlanda è diverso, cioè l'Irlanda se sono ubriachi sono simpatici, molto simpatici. Gli irlandesi sono molto simpatici, gli scozzesi sono un po' più chiusi, almeno per quella che è stata la mia esperienza. Nel senso l'ho vissuta, cioè, diversamente, noi abbiamo vissuto la stessa cosa più o meno in Irlanda, anche se poi alla fine, vabbè, io per esempio ci vado spesso perché la mia migliore amica vive là, però anche gli irlandesi, i propri irlandesi, sono molto chiusi, cioè l'ho visti molto chiusi e anche abbastanza razzisti nei nostri confronti, soprattutto gli irlandesi, quelli originari, sì. Quindi buon, va bene, dai ragazzi. Vittorio, volevi dire una cosa? Sì, vai, prego. Voi vi ricordate che 2 anni prima della Brexit loro hanno fatto il referendum per staccarsi? Sì. E il motivo per cui ha vinto il stay era perché sennò dovevano lasciare l'Europa. Per questo i scozzesi sono molto incavolati, perché sennò loro si sarebbero staccati dal Regno Unito se avessero saputo che il Regno Unito si staccava dall'Europa. Sì, però Ilaria, giustamente, ma nei contatti prima di organizzare questa puntata, lei dice giustamente il Partito Nazionalista Scozzese fondamentalmente non è nient'altro che la Lega da noi, solo con un po' di socialismo dentro, cioè nel senso qua alla fine. Beh, attenzione, loro hanno il Parlamento scozzese. Sì, questo è vero. C'hanno in teoria, virtualmente anche la moneta, se vai a vedere, perché comunque è l'unica. Lo sai che i pound scozzesi a Londra non te li scambiano, non te li cambiano, non te li accettano? Certo. Perché sono sozzoni. Non sei monopoli. No, sono pound normali. No, sono soldi. Lo so. C'è anche al contrario, cioè che i soldi british in Scozia te li accettano, però ti guardano molto male, ovviamente. E quindi c'è una bella differenza. Loro hanno il Parlamento, fanno delle leggi che valgono per la Scozia, eccetera. Sì, è un'indipendenza virtuale, cioè nel senso è. No, però fondamentalmente, se vogliamo affondare i motivi di supporto dell'indipendenza scozzese nelle ragioni storiche, allora ha quasi più ragione la Lega che non la Scozia, perché la Scozia fa parte del Regno Unito da molti più anni di quanto l'Italia non, cioè da più di quanto l'Italia non sia unita, quindi fondamentalmente per me questa cosa lascia un po' il tempo che trova, è un romanticismo, è una favola che ci si vuole dire perché ci fa simpatia, forse Braveheart, eccetera, però io Braveheart fa schifo come film, povera. è un film orrendo, però vabbè. C'è la nazione scozzese ai mondiali di calcio, cioè non è la Lega Lombarda. No, no, è vero, dai, non è proprio la stessa. Ma proprio perché non è proprio la stessa cosa. Anni che, ma proprio perché si stanno trasportando questo odio da tanti anni, capite? Non riescono a superarlo e ad ammettere che ci sono tante similarità. Cioè, questa cosa per me non è una cosa costruttiva in generale, non è una cosa apprezzabile. E il motivo per cui loro sono così attaccati all'Europa è perché il loro sviluppo fondamentalmente è iniziato quando il Regno Unito è entrato in Europa. Certo. Perché per cui che però questo però permettimi Laria però questo permettimi significa che il Regno Unito non ha fatto niente per loro tanto quanto l'Europa l'ha fatto, cioè cioè, questo è comunque indicativo, cioè nel senso comunque, aspetta, comunque no, anche qua se facciamo lo stesso esempio, allora è come dire il Mezzogiorno ha un ritardo economico perché cioè siamo, di cosa stiamo parlando? La Scozia ha il petrolio, è una regione ricca, è una regione che si può pure la Basilicata c'ha il petrolio. Il discorso è che quando si è aperta la esiste. Esatto. Cosa? No, scusa, stavamo dopo te lo dico. Cioè, che questa cosa mi fa proprio nervosire, quindi no, stavamo dicendo che pure la Basilicata c'ha il petrolio, poi giustamente Vittorio mi ha ricordato che la Basilicata in realtà non esiste, insomma. Pensavo fosse il Molise, poi effettivamente pure il Molise. Dicono che in chat dicono che Braveheart è un film da Oscar. Beh, ma molto bello, sono d'accordo, però è stato tanto tempo fa. No, vabbè, questo per loro è un'identità. Il discorso è che quello che è successo con l'Europa è che è iniziato uno scambio culturale, per cui non erano soltanto i loro simili fratelli inglesi ad interfacciarsi con loro, ma si sono arrivate altre persone, certo, a fare l'Erasmus, certo. Fare sì, e quindi beh, però è anche vero che a me uno scozzese tantissimi anni fa, insomma, diciamo, mi disse che loro fino a che non era arrivata all'Europa erano quello ubriaco, esatto, che hai braccato, bravo, quello che mi ha visto, m'ha visto con la maglietta della Lazio e mi ha offerto il whisky, cioè nel senso no, non so, ti ha offerto il whisky quello è un altro scozzese. Io ma sai, ha detto levati che questo è amico mio, rapporti d'amore con gli scozzesi. Comunque lui dice noi comunque qui eravamo isolati, cioè nel senso siamo qua al nord, non ci caga nessuno, cioè un po' diverso insomma il discorso. Comunque un po' per ritornare al Regno Unito, ci salutano dall'Irlanda. Hello there Runtime Radio and all your listeners, this is John Fortune here from Dublin in Ireland, just wanted to say hello to you guys and wish you well. Bravo John, grande, così ti vogliamo sempre, ascolta Runtime Radio anche se non capirai sicuramente una parola, però so che stai studiando l'italiano. Quindi sì, insomma sì. È uno dei pochi irlandesi che si impegna molto nel capirci. Prende sempre in giro perché poi noi diciamo 40.000 volte all'ora, quindi lui ogni tanto ci guarda e fa allora. No, però, ma voi dite allora, io non lo dico allora, io dico runtime. Ok, quindi questa cosa. Allora, un pensiero finale da parte di Laria e uno da parte di Vittorio, così almeno li liberiamo e poi noi andiamo a fare un po' la conclusione con calma io e te, e salutiamo anche gli amici della chat, ci ascoltiamo una bella canzoncina inglese, no irlandese, dai, irlandese la canzoncina. Vai Laria. Che dire, raga, speriamo bene, incrociamo le dita, teniamoci forte. Ma torna a casa, chissà ma casa aspetta a te. Io adesso vado a cliccare sul link del e ti informi, ok. E mi informo, così poi voglio bene a tutti gli scozzesi, gli inglesi e a Runtime Radio. Da lontano, dici. Da lontano gli vado male di bene. Ok, vabbè, l'importante è che vuoi bene a Runtime Radio, tutto il resto ci frega. Io voi sempre, da vicino, da lontano, vi voglio bene. Un giorno riusciremo a venire anche noi in Inghilterra se ci apriranno mai le frontiere. Come no? Io sono scozzese. Vittorio, che dire? Secondo me non hanno considerato bene prima di fare questa scelta e spero che quelli in Italia che dicono ah sì, stacchiamoci dall'Europa, vedranno quello che succede in Inghilterra e magari ci rifletteranno meglio. Bene ragazzi, io Ma io volevo sapere, ma c'avevo una domanda. C'avevi una domanda? Ma, molto semplice, ma l'effetto ritorno, cioè per tutta la famiglia, come è stato? Quanto ci abbiamo per parlarne? Allora, guarda che tu puoi rimanere, guarda, è Ilaria quella vuoi. Che deve andare via. Però no, allora devo dire che tornare a Roma, io che manco da Roma, mancavo da Roma da oltre 20 anni, pensavo veramente Madonna. Eh sì, io mi sono sposato e non ero già più a Roma, per cui e invece devo dire che alla fine mi trovo bene. Calcola che, cioè, ho messo la giacca 3 volte da quando sto a Roma, perché per me fa un caldo incredibile. Beh sì, dai, poi sti giorni si sta bene. Oggi giornate proprio. Diteglielo a Ilaria che sta lì. Lei che è del sud. Lei che ha la pelle bruna, che vorrebbe che si chiama il sole, capito? Che sta lì, dai, il sole. Certo, alcune cose burocratiche sono decisamente più complicate rispetto all'Inghilterra. Vabbè. È sempre l'Italia. Si mangia, mi sono fatto arrivare la mozzarella di bufala, eccetera, eccetera. Ci sono tante cose che mi erano mancate. Poi i miei figli, devo dire che 4 su 5 sono contenti. Il quinto un po' di meno, che c'è la fidanzata su. Aia. Però gli altri sono tutti molto contenti, devo dire. Anche il piccolino, quello che... Sì, quello più giovane, sì, il si è adattato subito. Subito, vabbè, quello è più facile, certo. Va bene, ragazzi. Io vi ringrazio. Come al solito, siete disponibili. Poi magari vi tornerò a disturbare per altre cose. Ilaria, vuoi fare pubblicità a qualcosa? Tipo, che ne so, qualcosa che fai tu, che ne so, qualche canale YouTube, la tua band, il tuo lavoro, non lo so, quello che vuoi. Oddio, detta così. T'ho spiazzato. Seguitemi su SoundCloud. Ok, SoundCloud. Come ti cercano, come ti trovano? Ilaria TS. Questa è un po' complicata. Ho scritto però TS, no TES. TS, esatto. E-S-S-E. Brava, ha fatto lo spelling, come dicono quelli che sanno. E invece Vittorio Campanile lo trovate su YouTube. Cercate Vittorio Campanile. Se siete appassionati di calcio, se siete tifosi della Lazio, è meglio. Perché chiaramente, ma se siete appassionati di calcio, chiaramente trovate Vittorio Campanile su YouTube. Iscrivetevi, attivate la campanella, così rimanete aggiornati ogni volta che arriva una notifica, quando arriva, perché non è manco detto. E commentate, mettete like ai video e insomma, e dite quelle cose belle che bisogna dire. Insomma, inutile che vi sto a spiegare, che vado a raccontare, insomma, giusto? Giusto, ma questo non ti scusa dal caffè, io lo aspetto ancora. No, ma io... No, arriviamo, siamo in zona gialla. Esatto, guarda... Purtroppo dovremmo venire con Scozia, perché è ancora piccoletta e troppe ore da sola non regge. Vabbè, questa Roma sta qua, noi stiamo a Montelongo. Magari tra cani e bambini ti distruggeranno qualcosa, però insomma, i bambini sono i tuoi, il cane è nostro, sì, faremo la conta poi. Benissimo, allora ragazzi, vi conviene attaccare su Skype, perché noi andiamo avanti e ci sentiamo la prossima volta. Grazie a Vittorio, grazie, e grazie ragazzi a Ilaria. Ciao, grazie a voi. Ciao. Stai ascoltando Runtime Radio, la radio geek. Runtime Radio and all your listeners. This is John Fortune here from Dublin in Ireland. Just wanted to say hello to you guys and wish you well. Allora, questa canzone si intitola Dublin Darrak, che potrebbe benissimo dire Dublin vi rompe il culo a tutti in gaelico, potrebbe essere anche. Che poi la cosa pazzesca è che Darrak è scritto CK? Darrak, C-A, sì. No, senza K, senza la C. D-A-R-R-A-K. Darrak. Dublin Darrak. E loro sono i aspetta che me lo sono perso, The Yedra Rebel Folk. Li trovate su Giamendo come Creative Commons. Devo dire, la canzone è carina, ma in realtà queste canzoni irlandesi sono un po' tutte così, sono tutte carucce. No, dicevo che in Irlanda, non so in Scozia, ma in Irlanda sicuro, i cartelli stradali sono in doppia lingua. Anche in Scozia, sì, anche in inglese. Cioè, in Scozia più vai al nord e più c'è anche il doppio cartello in gaelico, sì. Anzi, in alcune zone c'è solo il gaelico, quindi alla fine... Passante, stiamo cercando di capire che cos'è Darrak, ma non lo troviamo. Se conoscete qualcuno che è passante... Che cazzo è passante, dai, cioè, ragazzi. Vabbè, avete fatto un casino con questa chat. Io provvederemo e ci organizzeremo. Allora, ragazzi, credo che sia druido. Ah, il druido di Dublino sarebbe, sì, figo. Sì, bello. Noi ci scriviamo un libro fantasy su questa cosa. Dublin the Rock. Bello, bello, mi piace. Allora, ragazzi, Runtime Radio, come sapete, è diventata una web radio, www.runtimeradio.it. Voi che state ascoltando già lo sapete, chi ascolterà in podcast in differita, insomma, veniteci a cercare, sostenete il progetto, e soprattutto mi raccomando, siate sempre presenti, perché da lunedì 8 ci sarà un palinsesto enorme tutti i giorni, tutte le settimane, una cosa veramente fuori controllo, fuori dalla grazia di Dio, fuori di testa anche, infatti gestirlo non sarà proprio facile. Ma vi ricordo che domani sera c'è torna l'Udico Forum alle ore 21 con una puntata intitolata Nerd Evoluzione di un Insulto. Vi ricordo che sabato sera alle 23.30 ci sarà Runtime by Night con i soliti compagneros. Andiamo avanti fino all'una, alle due, alle tre, a seconda di come ci sentiamo, se il cane si sveglia o come ce lo del culo. Non mi sa che il cane si sveglia. Si sveglia, prega un cazzo. Quando dorme il cane, grande Scozia, ragazzi. Perché io capisco tutto, capisco Ilaria, gli voglio bene, però grande la Scozia sempre. No, grande la nostra Scozia. No, grande la Scozia in generale. La nostra Scozia. Che ha ricevuto già comunque i complimenti dell'educatrice, perché iniziamo con un cane equilibrato, ma vediamo come va a finire, perché c'è qualcuno che dice che i bambini, che in Scozia ci sta, anzi nel Galles. In Galles, scusate, per me sapete che è tutto una cosa, intanto mettiamo il sottofondo di chiusura. Salutiamo Vale 46 che ci dà veramente un WLF, e quindi sì, Vale sempre tipo. Anch'io che ce l'ho, dico sì, ok, WWF and the Well of Wells. Beh, scusa, non hai capito che cosa vuol dire iniziale WLF. Ah, ok, allora sai, Vale, se sei tutti, yeah. Hello there, Runtime Radio and all your listeners, this is John Fortune. John Fortune, lo salutiamo. Dublin in Ireland, just wanted to say hello to you guys and wish you well. Caro John Fortune, impara dell'italiano, perché noi non te capimo, siamo ignoranti chiaramente, però ti vogliamo maniera, come se tu già parlassi. Tra l'altro, John Fortune è che poi vabbè, non si parla delle persone che non ci possono ascoltare, di cui possiamo dire qualsiasi però cosa. Però l'unica persona che mi ha spiegato il significato scientifico, cioè è riuscito a spiegarmi il significato scientifico in inglese di quello che succede nel film Sharknado, cioè quando gli squali piovono dal tetto, capolavoro dal cielo, e lui mi ha spiegato che può succedere davvero, e è stato 40 minuti. Ah sì, la sapevo io. Spiegami questa cosa. Caro, io la sapevo anch'io questa cosa del paese in Irlanda che c'è il cartello più lungo della stazione. Sì, l'avevo letta da qualche parte. Mi sono sempre domandato se fosse vero, ma in realtà pare di sì. Però va bene, ragazzi, allora vi ho detto, domani sera l'Udico Forum, sabato sera 23.30 Runtime by Night, domenica sera probabilmente non c'è forum, Sì, forum. Andiamo bene. Non c'è domenica mono. Sera non c'è mono perché sabato sera festeggeremo il sabato ci sarà il compleanno del nostro. Eh sì, perché come ogni egregio. Runtime Radio, come ogni buona repubblica socialista, che cosa fa? Festeggia il leader massimo. E quindi mi tocca che mi festeggiano, capito? Quindi è una cosa così. Non ci possono fare niente. Lo devono fare, lo vogliono fare. E se vediamo alla prossima puntata. Scusa, ma che ha già distrutto le chiese qua intorno? Com'è, chiese distrutte, assolutamente. Sai che. E che ci hai fatto? Delle saune? Ci ho fatto dei bordelli. Proprio per sfregio. Ah, proprio okay. Chiesa ci ho fatto i bordelli. Che poi è più. Vabbè, perché Stalin è più o meno la stessa cosa. Stalin ci aveva fatto le saune. Ma io non so Stalin, io non sono un staliniano, io sono un marxista leninista, quindi okay. Per me rimango fedele, insomma, alla prima ora. Detto questo, so che il resto del mondo magari di questa cosa non gliene frega niente. Io vi saluto, vi do appuntamento fra un paio di settimane, che torneremo con una bella puntata sulle Olimpiadi in Giappone con l'amico Corrado. Con Corradone! Che facciamo? Perché vogliamo capire un po' com'è la situazione, insomma, se si fanno, non si fanno, col pubblico, senza pubblico, i sordi, senza sordi, i giapponesi come stanno, se c'è il Covid, se è tutto a posto. E insomma, poi una volta, se riusciamo a rintracciare Max Fierro, facciamo anche una puntata con la Corea. Così, tanto per di qualcosa. Bene, da me Simone Pizzini. Beh, sarebbe tutto. Bello ritrovare il nostro amico Max Fierro. Max Fierro, ragazzi, un uomo, vediamo se ci ascolta. Un io uomo diciamo. Della prima ora, cioè, ragazzi, un uomo che c'era agli albori di tutto quanto, ben 10 anni fa. Ragazzi. È una persona sempre gentile, carina, modo forte. Io mi permetti di ringraziare calorosamente tutte quelle persone che mi hanno mandato anche privatamente i messaggi d'auguri. Auguri per questo debutto di Runtime Radio come web radio, alcuni anche veramente gentilissimi. Mi permetto anche di ringraziare due persone, se mi dai un attimo un secondo ti vado anche a dire chi sono, perché insomma alla fine l'appoggio e il sostegno che alcuni ascoltatori ci hanno è veramente fuori di testa a volte, perché rimango basito di quanto la gente sia affezionata a noi e quanto sia disposta anche a essere generosa, pure a un gesto che magari uno dice vabbè, alla fine no, che è. Uno è Arturino Mazzei, ok ragazzi, non stavo a parlare di Arturino Mazzei, non stavo a parlare super di... Arturino, e l'altro è Mauro, super Mauro, che è Mauro che ci ha mandato un computer, ragazzi. Cioè stiamo allestendo la regia in modo che sia sempre attiva 24 ore su 24. Cioè, mi stanno accacciata la scrivania. E praticamente ci ha mandato un computer che ci servirà proprio per fare la regia ausiliaria, quella la secondaria. Scusate, potete trovare una casa anche per la regia, per favore? Esatto, quindi se avete delle case da regalare a Runtime Radio è sempre contento. Soprattutto la regia. Salutiamo Michela De Paola. Ciao a tutti, buonanotte. Salutiamo tutti gli amici. E se avete voglia andate su www.runtimeradio.it e cliccate su anche io, Runtime anch'io, dove avrete l'opportunità, insomma, di aderire alla nostra campagna Patreon o fare una donazione su PayPal, perché ricordatevi che tutto questo è bello e gratis, però insomma alla fine comunque c'è sempre un costo, e sostenere un progetto in cui credete fa sempre bene. Ciao a tutti e ci vediamo domani. Radio torna domani. Resta sempre connesso su www.runtimeradio.it.